150 galleristi di fama nazionale e internazionale, ingressi gratis nei musei, eventi speciali per le famiglie e soprattutto una città, Bologna, che spalanca le sue porte alle opere d'arte moderna e contemporanea. Arte Fiera 2012 è aperta al pubblico fino al 30 gennaio e tutto questo, oltre a rappresentare tradizionalmente l'appuntamento che apre il calendario internazionale degli eventi dedicati al mondo dell'arte. Nell'edizione numero 36 le novità non mancano, a partire dalla riduzione del numero di gallerie presenti, complice la crisi sono 50 in meno rispetto al 2011, fino all'idea di un'arte alla portata di tutti. Per resistere bisogna puntare alla qualità, dicono gli organizzatori. Quale occasione migliore di Arte Fiera, spiega il critico Achille Bonito Oliva. La fiera spesso rende comodo anche la vita dell'artista, del gallerista, del critico, di tutti, quindi produce una economia ecologica. Come per le gallerie, così per i collezionisti, così anche una fiera rappresenta ormai una complessità. Una varietà che coinvolge espositori e visitatori che sono sì collezionisti, ma anche tutti coloro che pensano all'acquisto di un'opera d'arte come all'investimento in un bene rifugio. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.